Intanto una chiave d'ingresso può essere quella della temporalità di questo festival. Questo festival dura ben 2 mesi, inizia il 9 aprile e si chiude il 31 di maggio e sono 2 mesi in cui i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze avranno modo di vedere in città i grandi autori e le grandi autrici della letteratura loro dedicata grazie alla presenza di Bologna Children's Book Fair, che porta in città i più grandi in assoluto della letteratura mondiale, e grazie appunto a 2 mesi di attività. Sicuramente un'altra chiave di lettura per quest'anno è l'ambizione di offrire ai ragazzi e alle ragazze il meglio della letteratura mondiale. L'internazionalità è un fulcro di questo festival da sempre e nei giorni di boom sarà possibile avere per i bambini e le bambine di Bologna i più grandi autori internazionali da incontrare: Eva Lindstrom, Blex Bolex, Maria Neurath, tantissimi nomi che attraverso a laboratori, incontri e mostre saranno presentati al pubblico. La terza chiave d'ingresso è quella del nord, a cui quest'anno viene dedicato un grande focus: la letteratura nordica intesa come paesi baltici e paesi scandinavi, che ci insegnano in qualche modo qual è l'idea di infanzia che un festival come Boom vorrebbe in qualche modo sposare in pieno: un'infanzia indipendente, un'infanzia piena di risorse creativa a cui va data una letteratura costruita proprio alla loro altezza. Questo si svilupperà attraverso una giornata di studi il 12 aprile in Sala Borsa con ospiti internazionali che discuteranno proprio su questo tema, e attraverso la Norvegia come paese ospite della Bologna Children's Book Fair, ma anche delle attività di Boom in città con incontri, mostre e moltissimi laboratori per bambini e bambine. La quarta chiave d'ingresso è quella dell'idea di trasformare Bologna in una sorta di laboratorio permanente, un laboratorio permanente in cui in qualche modo i formati con cui gli adulti e i bambini e le bambine possono incontrare la letteratura e l'illustrazione sono i più svariati, dai laboratori alle residenze artistiche, al cinema, attività che vanno in qualche modo, che partono dal libro e che al libro e ai bambini e alle bambine ritornano. Ecco, mi aggancio a questo perché in questo grande festival, anche se è limitativo chiamarlo festival, c'è una continua contaminazione di linguaggi che vanno dalla letteratura propriamente intesa al fumetto. Assolutamente sì, e una delle cose che ci insegna la letteratura per l'infanzia contemporanea è proprio che la sperimentazione è all'ordine del giorno, i linguaggi si incrociano e si mescolano, quindi dentro a Boom c'è l'illustrazione, ma dentro a Boom c'è anche il fumetto, ad esempio quest'anno grazie alla mostra all'Istituto Parri di Barbara Yelin, ma ci sono anche altri linguaggi, audiolibri, narrazione in occasione ad esempio dell'anniversario dei 200 anni di Carlo Collodi, la libreria Attraverso dedica una mostra a Pinocchio che nasce dalle tavole di Manuele Fior, ma nasce anche da un libro audio che racconta di nuovo le pagine di Collodi. Quindi la sperimentazione va veramente dall'immagine disegnata al suono della letteratura, alla performance teatrale che, come accadrà nel caso di Hervé Toulet al Teatro Testoni, sarà uno dei fulcri di questa edizione.